pochi mesi, paroli, borghesi, ancora pochi mesi, paroli, borghesi, ancora pochi mesi, paroli, borghesi. Te lo raccontiamo noi, l'autunno caldo. 50 anni dopo, il 68, il 69 e Piazza Fontana. Buonasera allora agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Città Fujiko e benvenuti ad ascoltare Te lo raccontiamo noi, l'autunno caldo, con il sottoscritto Michele Terra e Agostino Giordano. Ciao a tutti. L'autunno caldo secondo te era una definizione meteorologica del colonnello Bernacca che 50 anni fa intorno alle 20 andava in tutte le case italiane sul primo canale Rai a spiegare quale sarebbe stato il tempo la mattina dopo? Ma credevo anch'io di sì, ma non è così? No, l'autunno caldo è una definizione storico-politica di un periodo. No, scusa, non riguarda i cambiamenti climatici. Autunno caldo che poi diventa freddo, che poi ritorna caldo, c'era già Greta Thunberg. No, nel 1969 l'autunno era ancora freddo abbastanza. E per autunno caldo noi intendiamo un periodo storico degli ultimi mesi del 1969 in cui raggiunge l'apice la contestazione operaia, in particolar modo attorno al contratto, al rinnovo contrattuale dei metalmeccanici che si trascina dietro tutta l'ondata operaia e anche i movimenti studenteschi che avevano preso piede in Italia nel 68 e in alcune facoltà, alcuni atenei, anche qualche anno prima. Aspetta Michele, ma c'eri tu? C'eri già tu? Sono nato un po' dopo, me lo sono fatto raccontare. Ah, ecco perché no, autunno caldo, il 68 e il 69 sembra, è un po', sono quelle cose mitiche, no, che alcuni compagni che incontravi o che incontri, no, sembrano aver vissuto come immortali, no, il 68, il 69, il 77. E Michele, tu sei uno, insomma, dalla barba, dall'aspetto sembra che ne hai vissute tante, invece no. No, diciamo che avrei vissuto meglio se i movimenti del 69 avessero vinto. In realtà dentro il 69 succedono molte cose, c'è il rinnovo contrattuale, ma c'è anche la strage di Piazza Fontana, su cui ritorneremo nelle prossime puntate, che tenta di interrompere quel ciclo di lotte e dare una svolta politica autoritaria al nostro paese. Ma dentro il 69 poi cominciano a germogliare anche le prime organizzazioni rivoluzionarie della nuova sinistra, che raggiungeranno il loro apice nei primi anni 70 e dureranno almeno fino alla metà degli anni 70 e in alcuni casi addirittura fino alla fine del decennio successivo. Beh, comunque fu un periodo di lotte significativo, importante anche per quanto riguarda l'ambito dei diritti dei lavoratori. Non a caso lo Statuto dei Lavoratori si ebbe nel 1970, ecco, dopo una serie di lotte importanti, decisive, che videro l'operaio, la figura dell'operaio protagonista. Quindi da un lato c'era un po' la mitizzazione, no, di questa figura dell'operaio, dall'altra però in effetti rappresentava, diciamo, l'interprete del cambiamento, della rivoluzione, no, sia dei costumi ma anche dell'ambito dei diritti. Non a caso andava a braccetto con lo studente, no, con l'altra figura simbolica di quel periodo. Certo, un periodo, quello del 68-69, di grandi fermenti politici, sindacali e culturali che non risparmiarono nessun ambito della vita politica e civile del nostro paese. Anche nella Chiesa ci furono movimenti, certo, nuovi di contestazione, diciamo anche a seguito di quello che fu il Concilio Vaticano II. Diciamo, comunque fu un periodo abbastanza denso, abbastanza vivo e significativo, e che rappresentò un mutamento per tanti aspetti. Ecco, spesso si dice che l'epoca attuale è, diciamo, l'epoca peggiore che ci poteva capitare da vivere, no? Vista la situazione dell'attualità. Però se pensiamo alla società italiana negli anni 60, com'era allora sotto tutti i punti di vista, sia sotto l'aspetto della moralità, della censura, della vita quotidiana, una svolta, una rottura, diciamo che fu necessaria, ecco, e fu per certi versi significativa e decisiva anche per gli anni a venire. E molte conquiste che oggi sembrano banali, sembrano scontate, all'epoca non lo erano, e diciamo fu necessaria quella fase di rottura, quel momento di lotte che attraversò tutto il paese, ecco, in quella fase. Caro amico, la mia lettera ti giunge da lontano, dal paese dove sono a lavorare, dove sono stato cacciato da un governo spaventoso che non mi forniva i mezzi per campare. Ho passato la frontiera con un peso in fondo al cuore, è una voglia prepotente di tornare nel paese dove son venuto al mondo, dove lascio tante cose da cambiare. E mi son venute in mente le avventure del passato, tante donne, tanti uomini e bambini, e le lotte che ho vissuto per il posto di lavoro, i sorrisi degli amici e dei vicini. E mi sono ricordato quando giovani e felici andavamo lungo il fiume per nuotare, e Marino il pensionato ci parlava con pazienza, aiutandoci e insegnandoci a pescare. Caro amico, ti ricordi quando andavo a lavorare e pensavo di potermi già sposare? E Marisa risparmiava per comprarsi il suo corredo e mia madre l'aiutava a preparare. Ed invece di sposarsi tra gli amici e i parenti, l'ho sposata l'anno dopo per procura, perché chiuserò la fabbrica e ci tolsero il lavoro e ci resero la vita molto dura. Noi ci unimmo, poi scendemmo per le strade per lottare, per respingere l'attacco del padrone. Arrivati da lontano poliziotti e celerini, caricarono le donne col bastone. Respingemmo i loro attacchi con la forza popolare, ma convinti da corrotti delegati, ci facemmo intrappolare da discorsi vuoti e falsi e da quelli che erano stati comprati. E mi viene da pensare che la lotta col padrone è una lotta tra l'amore e l'egoismo, è una lotta con il ricco che non ama che i suoi soldi ed un popolo che ha bisogno di altruismo. E non contano le parole che si possono inventare, se ti guardi intorno scopri il loro gioco. Con la bocca ti raccontano che vogliono il tuo bene, con le mani ti regalano ferro e fuoco. Caro amico, per favore tu salutami gli amici ed il popolo che è tutta la mia gente. Sono loro il vero cuore che mi preme ricordare, che rimpiango e che mi ha amato veramente. Verrà un giorno nel futuro e potremo ritornare e staremo finalmente al nostro posto. Finiremo di patire, non dovremo più emigrare, perché un tale ce lo impone ad ogni costo. Ecco, magari per capire quali furono le premesse politiche del biennio 68-69 potremmo andare con la prima intervista che appunto ci racconterà i prolegomeni, direbbero alcuni intellettuali. Cosa? I prolegomeni. Sei mai uscito a passeggio con un prolegomeno? No, assolutamente no. E comunque andiamo con la prima intervista a questo punto. Abbiamo qui con noi in linea Sergio Dalmasso, studioso dei movimenti e della sinistra del secolo scorso, autore di libri interessanti, l'ultimo uscito questa primavera su Rosa Luxemburg, ma andando un pochino più indietro nel tempo anche una bella biografia di Lelio Basso e ancora più indietro nel tempo un libro sulla nascita del Manifesto, appunto nel 1969. Ciao Sergio, grazie di essere con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti e tutte. Una prima domanda, parlando appunto di 68-69 e autunno caldo, in quel periodo nasce la nuova sinistra, però ci sono alcune premesse politiche in quel periodo, anche di organizzazioni, partiti, strutture di cui si è persa la memoria, un po' i Quaderni Rossi e un po' magari anche il Partito Socialista Italiano d'Unità Proletaria. Ci puoi raccontare un po' qualcosa della geografia della sinistra di quel periodo? Sì, dovendo essere rapidi, direi che si parte sempre con il 1956, quando finisce di fatto un pensiero unico, quando si apre un dibattito profondo a sinistra su posizioni anche diversificate dopo il crollo di una immagine unica all'Unione Sovietica, Stalin e altro. C'è il 1960, che è un fatto molto importante, perché davanti a un governo democristiano appoggiato dal movimento sociale il paese insorge, si hanno scontri sociali importanti e si apre sostanzialmente una stagione politica nuova. Il centro sinistra. Naturalmente questi moti mettono luce molte cose, mettono luce un sentimento antifascista profondo nel paese, ma anche un protagonismo di giovani che era impensato fino a quel tempo, e un malessere sociale profondissimo che covava nella società intera. Sempre in quegli anni partono lotte di fabbrica che erano sembrate bloccate, ferme per lunghissimo tempo, c'è un rilancio di questo, e i Quaderni Rossi di cui tu parli sono una rivista, per la carità, piccola, di nicchia se vogliamo, che non incide molto a livello di massa, ma che ha dei grandi meriti, perché Panzieri, che è un marxista critico in quegli anni, mette la fabbrica al centro per l'iniziativa politica. Il partito non può esistere se non ha la fabbrica come suo centro, e c'è una rilettura che non è ortodossa di Marx, che tocca anche testi che non erano mai stati sostanzialmente toccati dalla ortodossia. Ancora, sempre schematizzando in un modo terrificante, c'è una serie di questioni internazionali. Scoppia il contrasto fra Unione Sovietica e Cina, quindi il movimento comunista internazionale non è assolutamente monolitico. Ci sono rivoluzioni anticoloniali che mettono a luce soggetti nuovi, l'Algeria, la stessa Cuba, se vogliamo, che non è esattamente anticoloniale, ma si colloca comunque in questo discorso sul terzo mondo che c'era in quel tempo, senza fare alcun mito di alcuno fra questi paesi. In Italia, nel PC, ci sono contraddizioni e contrasti, c'è una storia di azione comunista a fine anni 50 che è tutta da scrivere e da conoscere, e ci sono i primi movimenti cinesi che ragionano in termini molto mitici della Cina, ma che mettono a luce una difficoltà, una contraddizione di una generazione, soprattutto partigiana, che si sentiva scarsamente rappresentata dalla politica del partito. E c'è questo PSIUP di cui parlavi, che ha un peso importante, è un piccolo partito, arriverà al massimo al 4,4% di voti, un 150.000 tesserati, cifre che oggi sembrano impossibili, che ha una contraddizione interna fra chi vorrebbe semplicemente rifare il vecchio partito socialista in chiave sostanzialmente frontista e chi invece ragiona sulla necessità di una forza socialista di sinistra completamente nuova che faccia i conti con i cambiamenti che nel mondo vi sono stati. Il neocapitalismo di cui si parlava in quei tempi e il rifiuto di una politica riformista che deve essere coniugato naturalmente con una politica differente. Quindi c'è un po' tutto questo insieme di fatti, no? Che poi si collega anche con le difficoltà del Partito Comunista in quegli anni, che naturalmente il partito egemone è molto grosso, che supera il 25% di voti, ma che mette in luce delle contraddizioni interne, insomma. Nel 1969 viene espulso dal Partito Comunista Italiano anche il gruppo del Manifesto. Ci puoi raccontare qualcosa a proposito? Ma è stata la mia prima formazione politica, per carità, ero molto giovane in quei tempi. Il Manifesto pone una serie di problemi all'interno del Partito Comunista, riprendendo alcune tesi ingraiane, cioè della sinistra interna degli anni precedenti, tesi che erano state sconfitte frontalmente nel 1966. Pone tre questioni fondamentali: la prima, una democrazia interna maggiore, il diritto di non solamente esprimere idee ma anche di strutturarle, organizzarle. Infatti fondano una rivista che è la causa poi della loro cacciata a novembre 1969, sono passati 50 anni. Seconda questione, politica internazionale, una critica all'Unione Sovietica profonda, che non è solo ad alcuni piccoli punti, ma è il discorso sulla irriformabilità dell'Unione Sovietica e dei paesi dell'Est. C'è forse in alcuni tratti, bisogna dirlo onestamente, un eccesso di fiducia nella Cina, in quello che stava succedendo in Cina, che non viene mai letta criticamente per lungo tempo, ma c'è comunque questo dato fondamentale di capacità critica verso l'Est che si esprime in molti scritti, in valutazioni e altro. La terza questione è la strategia interna. Davanti a un partito comunista che sempre più chiede sostanzialmente, non siamo ancora al compromesso storico teorizzato, ma un allargamento di maggioranza, un tentativo di maggioranza con le forze esistenti, un centro-sinistra che si allarghi profondamente, una modificazione politica che lo comprenda, la cosa è anche comprensibile perché aveva il 25% 100% di voti. Il manifesto, il piccolo gruppo interno, sostiene che sia invece necessario cercare una strategia completamente diversa, che unifichi la sinistra, che abbia dei paradigmi completamente diversi e che rifiuti un rapporto privilegiato con la Democrazia Cristiana, che sarà poi il centro del compromesso storico berlingueriano a partire dal 1973. Questo produce una serie di sconquassi interni e la radiazione di questo gruppo è cinquantenario, e un peccato che anche su giornali, riviste se ne sia parlato poco. Ti chiederei anche un'opinione non storica ma forse metastorica, visto che hai studiato anche l'esperienza del Partito Socialista di quel periodo. È possibile immaginarsi un Bettino Craxi Cappellone con la Molotov nella 24 ore che va alla statale di Milano a rimorchiare le compagne del movimento studentesco? Beh, magari con la Molotov nella valigia no, ma magari un po' più Cappellone che cerchi di, diciamo, dragare, è possibile. Pensa ad altre figure, De Michelis e altri, e ai passaggi loro, informazioni operaiste e altro. Insomma, molti di tanti personaggi che abbiamo conosciuto nei movimenti di estrema sinistra allora sono poi piegati su posizioni completamente differenti, alcuni diciamo molto peggio rispetto al Partito Socialista di Bettino Craxi. Avrei dovuto dragare un po' di più io in quei tempi, non l'ho fatto purtroppo e mi spiace. Sto facendo il notiziario cambogiano da una radio libera per chi il microfono è un po' fallico, però il potere non ce l'hanno, no, circondato dai mass media sulla sedia, io lavoro sempre gratis, ma c'è Antonietta che mi ama, che mi aspetta tutta notte, lei mi ascolterà. Compagno, sì, compagno, compagno, un cazzo. Compagno, sì, compagno, no, compagno, un cazzo. Hey! Io c'ho profugo cileno a casa mia, è arrivato nel 73. E da allora lui non è più andato via, Antonietta fammi star da te. E passa un giorno, passa un mese, passa un anno, lui mi sconfiggerà il padrone. Ma Antonietta mi ha buttato per la strada, vuoi vedere che sono io il coglione? Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Yeah. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Yeah. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Hey. Io vado a prendere un po' d'erba da un amico, ad Antonietta la regalerò. Io lo lascio chiusa in macchina un secondo per andare a bere un buon caffè. E quando esco mi hanno spaccato il finestrino e un ragazzo sta saltando il muro. Come fai a mandare uno a San Vittore, poi finisce che gli fanno il culo. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Si avvicina un tizio con cravatta e giacca, tira fuori il fetto un tesserino e mi dice: tu sei uno di sinistra, stai tranquillo, sono un celerino. Sono un pulotto, sì, ma sono del sindacato, forza dimmi cosa ti hanno rubato. Io gli dico: lascia perdere compagno, è un problema troppo delicato. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Bologna in quegli anni probabilmente sembrava una città molto... Aspetta, Michele, Bologna che c'entra con 68-69? A Bologna c'è stato il 77, dai, basta. Perché Bologna al centro della pianura padana sembrava l'isola felice ben governata dal Partito Comunista Italiano. Quindi c'è stato il 68 pure a Bologna. Sì, c'è stato il 68 studentesco, ma anche il 69 operaio. L'autunno caldo è arrivato anche qua. Ah, però. Non c'è stato soltanto la Fiat a Torino o a Milano, la Pirelli, l'Alfa Romeo, com'è che si cantavano i cortei? Gemelli, Pirelli... Agnelli, Pirelli, ladri gemelli. Ti vedo abbastanza preparato. E quindi anche a Bologna nacque la contestazione, e anche qui a Bologna nacquero i primi gruppi politici. Era una delle poche zone fuori dal Veneto dove per esempio c'era potere operaio, ma anche qui si ebbero alcuni fermenti, e su questo siamo andati a cercare qualcuno che ne sa più di noi. Abbiamo qua in collegamento telefonico con noi Fabrizio Billi, che è un saggista, ha scritto molti libri sulle tematiche della nuova sinistra, sulle 68 e 69, è nazionale e anche bolognese, ma soprattutto è uno dei guardiani della memoria dell'archivio storico della nuova sinistra Marco Pezzi, dedicato all'indimenticato e indimenticabile segretario di DP di Bologna. Ciao Fabrizio. Ciao Michele. Senti, la prima domanda che ti vorrei fare riguarda il piano locale, ovvero come il 68-69, l'autunno caldo, è stato vissuto dagli studenti della nostra città qui a Bologna. Quasi sorprendentemente il 68-69 sono stati vissuti intensamente anche a Bologna, dico quasi sorprendentemente perché solitamente si associa il 68 studentesco a città come Milano, la Statale di Milano, oppure l'Università di Torino o Pisa, dove il 68 inizia nel 67, insomma a certi luoghi che sono giustamente celebri perché sono stati teatro di lunghe lotte, mobilitazioni significative, però anche a Bologna è successo qualcosa, il 68 è radicato, ci sono state delle lotte studentesche, occupazioni, manifestazioni, scioperi, e questo penso ci possa portare a considerare in un'ottica un po' diversa quella comune, corrente, il 68 in Italia, perché è una dimostrazione di quanto le mobilitazioni studentesche, poi vedremo anche quelle operaie del 69, si siano diffuse anche in realtà medie come Bologna, poi anche più piccole, perché anche in altre città ci sono stati fatti analoghi, insomma la dimostrazione del radicamento del 68 e 69 operaio, questo sia per le mobilitazioni studentesche che per quelle operaie anche, che sono state significative anche a Bologna. L'autunno caldo 50 anni fa viene ricordato soprattutto per le lotte nelle fabbriche del Milanese, la Fiat a Torino, mentre Bologna è passato un po' al secondo piano, però ci furono fermenti operai anche nella nostra città, vero? Sì, esattamente. Come ci furono fermenti studenteschi, anzi anche qualcosa di molto di più di fermenti, ci furono fermenti operai, anche cose significative. Ricordo per esempio qualche vertenza significativa come quella della fabbrica Pancaldi, era una camiceria che era in crisi perché era mal gestita dal padrone più che altro, ci fu questa occupazione che durò quasi un mese, anche in altre fabbriche come la Sassi per esempio, o la Ducati elettronica, oppure la Ducati meccanica. Furono lotte che riguardavano soprattutto le condizioni di lavoro in fabbrica, cioè l'allineazione della catena di montaggio e richiesta di salari migliori, che voleva dire insomma più umani, non di pura sopravvivenza. E furono comunque lotte radicate, e anche questa è testimonianza di quanto fu diffusa la mobilizzazione operaia nel 69, non solo la Fiat, non solo nelle fabbriche milanesi. Un'altra domanda riguardo l'università: ma è vero che Jean-Paul Sartre venne a visitare lettere occupate, o è una questione puramente mitologica? No, non è mitologica, ci sono anche delle testimonianze fotografiche. Nel sito dell'archivio storico dell'Università di Bologna ci sono 43 foto di quell'evento. In realtà fu l'Istituto di Psicologia, sì, che allora faceva parte della facoltà di lettere. Il 23 luglio 68 ci fu un'assemblea di studenti con Sartre, ma non c'era soltanto Sartre, c'era anche Basaglia, una cosa un po' una sorpresa perché Basaglia insomma è un nome noto, uno dei protagonisti del 68 e delle lotte per i diritti civili, e parteciparono a un'assemblea con gli studenti per discutere del ruolo dell'università, dell'idea di didattica, della formazione, in sostanza di cosa studiare, per chi studiare, per quale società. Tu Fabrizio sei nato nel 68 se non sbaglio, ti senti più figlio dei fiori o figlio della rivoluzione sessuale? In realtà non mi sento né l'una né l'altra cosa, né figlio dei fiori né figlio della rivoluzione sessuale, perché i miei genitori sono di un'altra generazione, quindi non hanno avuto niente a che fare né con i figli dei fiori né con la rivoluzione sessuale, sono come dire un figlio del baby boom del dopoguerra, dell'innurbamento di tanti ex contadini che sono venuti in città attratti dalle vere condizioni di vita e di lavoro, perché cioè, i miei genitori insomma questo sono della campagna, quindi non mi sento né l'uno dell'altra cosa, anche penso che se ponesse questa domanda a mia mamma, cioè, penso che non la capirebbe nemmeno, non saprebbe neanche che cosa sono i figli dei fiori. Anche tu insomma è nato sotto il cavolo di un orto urbano, va bene, grazie. Esatto. Fabrizio, a presto. Ciao Michele, prego. Amico che cerchi il tuo paradiso, l'inferno lo vivi quando hai la paura. s'aprano ai raggi del sole. Se pensi al domani, il tuo paradiso forse hai nelle mani, un figlio dei fiori non pensa al domani. La la la la la la la la, un figlio dei fiori non pensa. Ma abbiamo qualche libro da consigliare agli ascoltatori? Bah, direi che come minimo L'Orda d'Oro di Primo Moroni e Nanni Balestrini, che appunto ripercorre il periodo dal 1968 al 1977, che appunto dà l'idea di questa onda lunga che ci fu in Italia. Appunto, alcuni sostengono che in realtà il 1968 è finito nel 1977, quindi che è durato circa un decennio. Altri appunto sostengono che siano cose completamente diverse, completamente separate, completamente staccate, però diciamo questo testo credo che sia uno dei testi fondamentali per capire il 68, per capire il 69 e per avere l'idea del clima sociale e politico che si respirava in quegli anni in Italia. Altri, tu ne hai in mente altri? Proprio sull'autunno caldo, ancora Nanni Balestrini, però non è un saggio, è un romanzo, Vogliamo tutto, la narrazione di un disoccupato meridionale che arriva nella grande metropoli del nord e si trova a fare l'operaio e vive tutte le lotte di quel periodo, durissime, testo molto forte e soprattutto scritto nella classica maniera di Nanni Balestrini, senza punteggiatura, che però si legge benissimo e che trova tra l'altro come protagonista l'operaio Alfonso Latella, che tra l'altro era esistito per davvero ed era un personaggio abbastanza noto del mondo politico-sindacale del tempo. Beh, io credo che con Nanni Balestrini e Primo Moroni abbiamo citato due dei personaggi chiave significativi per capire e interpretare quel periodo. Poi è chiaro che c'è anche una bibliografia ampia e variegata che su quegli anni ha scritto tantissimo e che comunque insomma rappresenta una ricchezza. Ecco, poi qui a Bologna abbiamo diversi archivi che consultabili e che ci danno, ci restituiscono quello che fu la grandezza di quel periodo. Per questa sera con questi due libri direi che possiamo chiudere e ci risentiamo a domani. A presto. Answer.